La storia di GKN oggi è in fondo una storia complessa, ma semplice. Complessa perché questi 20 mesi non sono più facili da riassumere in un semplice discorso. Si è messo in moto un meccanismo che è quello dell'inquinamento dei pozzi, di trasformare la nostra vertenza in una cronachetta piena di colpi di scena più o meno miseri, investitori che non si presentano, imprenditori che recriminano, che trasformano il mondo al contrario, per cui sostengono che il lavoro nella GKN di Firenze manchi perché c'è l'assemblea permanente, quando l'assemblea permanente si è creata perché dal 9 luglio 2021 ci hanno tolto il lavoro, e quindi riassumere questi 20 mesi probabilmente non ci vorrebbero 40 minuti, ma in fondo invece è semplice. Noi abbiamo sconfitto i licenziamenti in tronco, l'abbiamo sconfitto grazie a un moto di popolo impressionante, di fronte a un messaggio semplice, perché quella mail del fondo finanziario indignava ed era, permettetemi, forse anche un'indignazione facile, perché era chiaro il meccanismo che si era messo in moto, però si è messo in moto dopo un altro calcolo. Le multinazionali, i fondi finanziari probabilmente non chiudono soltanto con i licenziamenti in tronco, si può licenziare senza mai dichiarare un licenziamento, perché che cosa sono se non 220 posti di lavoro bruciati senza dichiarare mai un licenziamento, bruciati da 14 tavoli sotto varie forme istituzionali fatti in 20 mesi senza mai che ci fosse un intervento pubblico, la sensazione di sbattere sempre contro un muro di gomma che ti fa dire che forse è meglio se lasci, ti trovi un lavoro di qualsiasi altro tipo di 1, 2, 3 mesi, e poi magari te lo dice anche la famiglia, ma che cosa stai a fare, rinuncia, tanto poi alla fine rimarrà uno scheletro vuoto, si perderà una comunità operaia fatta di consapevolezze, diritti, solidarietà, comunità. Si è messo probabilmente in moto un altro meccanismo, quello dei licenziamenti per logoramento, dell'investitore che non arriva mai, che è sempre dietro l'angolo, degli accordi non chiari, delle domande semplici a cui non c'è mai una risposta semplice. Quali sono gli accordi tra la nuova proprietà e la vecchia proprietà? Come mai l'investitore non arriva mai? Come mai di tutto quello che viene detto, scritto negli accordi, poi non viene mai rispettato quasi nulla? Ecco, noi abbiamo resistito anche a questo logoramento, che a dir la verità non è stato usato solo contro GKN. Questo logoramento è un classico della modalità con cui in Italia si chiudono le aziende. L'abbiamo visto a Piombino, l'abbiamo visto a Termini Imerese, l'abbiamo visto alla Bekaert. Noi eravamo preparati a questo tipo di logoramento, avevamo chiamato questa tattica la tattica della rana bollita, e sapevamo che la convergenza sociale, cioè una vertenza che non parla solo di sé ma parla tutto il mondo, era l'unico modo che noi avevamo per superare anche il logoramento. Perché se pensi di parlare solo di te in un paese dove la povertà assoluta è triplicata negli ultimi 15 anni, evidentemente non interessi a nessuno, perché le lavoratrici e i lavoratori GKN non sono gli unici ad avere il problema della precarietà, del lavoro, del salario, ed avere il problema di essere inquietati rispetto al mondo che stanno vivendo, che corre verso la terza guerra mondiale a grandi passi, dove abbiamo avuto il record in questo ultimo anno di eventi climatici avversi, dove non sappiamo esattamente qual è il futuro che ci aspetta. Quindi abbiamo superato questo logoramento con una vertenza universalistica e a tutto campo. E allora è iniziata un'altra tattica, quella che abbiamo chiamato dell'assedio. E l'assedio è feroce, perché si compone di due direttrici. La prima è quella sostanzialmente di aver abolito il contratto nazionale, i contratti di secondo livello, lo stipendio, la paternità, l'allattamento, la maternità, i contributi, il diritto anche ad avere il TFR entro certe tempistiche dentro GKN. E io dico che il movimento sindacale, qualsiasi esso sia, nessuno si può permettere un simile precedente, perché in piccolo, molto in piccolo, perché siamo una realtà industriale, questo ricorda tantissimo quello che fu fatto col modello Marchionne in FCA. Di fatto a noi è stato tolto anche il diritto al CUDA, la busta paga, non sappiamo più nulla. E la seconda direttrice dell'assedio è fare terra bruciata attorno agli assediati, continuare a disturbare il loro messaggio, a confonderlo. Da questo punto di vista l'assedio ha bisogno di aiuto, che vengano altri da fuori a rompere questa terra bruciata, e quindi ringraziamo chi ha firmato quell'appello. E infine il paradosso è questo, che noi non siamo solo resistenza, noi siamo progetto, noi siamo alternativa. Forse è questo il tipo di precedente che non si possono permettere. Prima di tutto noi abbiamo presentato un piano nel dicembre 2021 che sosteneva che GKN poteva essere reintegrata nell'industria italiana autobus, nel produrre mezzi pubblici ripartendo sulle sue basi. Non c'è stato nessun tipo di intervento pubblico, pur in un settore come quello dell'automotive, dove l'intervento pubblico è l'unica via fondamentale per portare a una reale conversione ecosostenibile senza bruciare posti di lavoro. Dopodiché abbiamo parlato di idrogeno verde, ci siamo collegati al movimento ambientalista e, sviluppando sempre di più questo piano, oggi siamo a questo, che abbiamo lanciato un crowdfunding su produzioni dal basso per la prima fase, che ci stiamo attrezzando per discutere anche di un workers buyout, di ripartire in cooperativa se necessario, ovviamente sapendo che l'esperienza delle cooperative passate è spesso di isole che sono partite come alternative all'attuale sistema di mercato, e spesso sono diventate addirittura penetrate dalle peggio logiche del mercato. E infatti la cooperativa, che noi ci immaginiamo una cooperativa non solo con due produzioni fortemente ecosostenibili, quella per cargo bike, che potrebbe rivoluzionare anche il delivery urbano e la mobilità anche nella nostra stessa città, la produzione di pannelli fotovoltaici e batterie senza magari usare litio, silicio e cobalto, perché stiamo studiando anche questi tipi di tecnologie per metterle a disposizione di un fiorire di comunità energetiche orizzontali, altro che trasformarci nel lab del gas e del fossile mediterraneo in alternativa ai blocchi bellici che si stanno creando. Ma ci immaginiamo anche che questa fabbrica sia socialmente integrata, cioè che veda al suo interno, come già oggi esiste, un dopo lavoro basato sull'articolo 11 dello Statuto dei Lavoratori, una società operaia di mutuo soccorso, che quel territorio che l'ha difesa viva di quella fabbrica, che quella fabbrica continui ad essere aperta a quel territorio, non per puro ideologismo, ma perché questa è la nostra esperienza. Quando ci hanno chiuso, non ci hanno tutelato le leggi, non ci ha tutelato lo Stato, non ci ha tutelato il governo, ci ha tutelato la solidarietà, le parrocchie, l'ARCI, i centri sociali, il mondo artistico intellettuale, i ricercatori e le ricercatrici solidali. Allora, se è questo che tutela la fabbrica deve a sua volta tutelare questo e farsi leva per promuovere questo. Quindi noi vi chiamiamo il 25 in piazza, uno perché c'è un precedente sindacale che va chiuso, non si può sequestrare contratto nazionale e salari, e basterebbe questo. Due, per sconfiggere il nuovo calcolo, evidentemente, di licenziare persone non attraverso il licenziamento concreto, ma lasciandole senza stipendio, senza licenziamento formale ma sostanziale. Tre, perché ce lo meritiamo, perché questa lotta di 20 mesi fosse anche per fare l'ultima grande attraversata della nostra Firenze, si merita questo corteo. E quattro, per l'intervento pubblico, la fabbrica socialmente integrata, e per ripartire creando un punto d'appoggio, una leva, per dimostrare che c'è un'altra politica industriale in questo paese, non per noi, ma come sempre per tutte e per tutti.